La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Giacomino e il povero diavolo. Una fiaba liberamente ispirata dai fratelli Grimm. Scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Tanto tempo fa viveva nell'isola di Hycnos un piccolo uomo di pelle scura e dai capelli rossi. Il suo nome era Giacomino, detto Pelo Rosso. Egli era conosciuto per essere un uomo ladro e imbroglione. Inoltre aveva la cattiva abitudine di bere troppo, specialmente una grappa tra le più buone al mondo, che tutti chiamavano acqua di fuoco o acqua che brucia. Una notte Pelo Rosso aveva bevuto talmente tanto da ritrovarsi svenuto a terra in mezzo alla campagna. Mentre stava disteso nel mondo dei sogni, la sua anima uscì dal suo corpo per andarsene a fluttuare libera d'intorno e prendere un po' d'aria, ma soprattutto per star lontana dalla puzza d'ubriacone di Pelo Rosso. Un piccolo diavolo venne fuori rapido da sottoterra per rubare quell'anima vagante, ma fortunatamente Pelo Rosso fece in tempo a sollevare leggermente le palpebre per vedere quel piccolo diavolo afferrare la sua anima, prenderla in braccio, accarezzarla di tante coccole come solo una buona mammina sa fare. Rapido, Pelo Rosso si alzò e strappò dalle mani del piccolo diavolo la sua anima. «Ehi, Pelo Rosso, quell'anima è mia!» minacciò il piccolo diavolo. «E fossi matto!» disse Pelo Rosso. «Non sono ancora morto, stavo solo dormendo e l'anima m'è scappata!» «Niente da fare, bello mio!» replicò il piccolo diavolo. «Io sono Dimonietto, figlio degli inferi, e mentre me ne andavo in giro a cercare anime, ho visto la tua, che vagava per aria, perciò l'ho acchiappata. E secondo la legge del trapasso, essa ora appartiene a me. Avanti, ridammela!» Pelo Rosso, che sapeva d'essere in torto, si mostrò rassegnato e supplichevole, come fosse un cane che chiedeva perdono. Poi disse: «E va bene, Dimonietto caro, ti darò la mia anima perché è tuo diritto prenderla. Ma prima vorrei chiederti che ne pensi se ci concedessimo insieme un ultimo bicchiere di acqua di fuoco? Ormai siamo quasi parenti, stretti o no? E dalle nostre parti lo sai che i parenti si offendono se si rifiuta l'ultimo bicchiere in compagnia. Diciamo che potrebbe essere il nostro bicchiere della staffa». Ora, dato che Dimonietto era un piccolo diavolo di sottoterra e a quelli di sottoterra piace assai farsi un bicchiere di acqua di fuoco senza risparmio, quello non ebbe alcuna intenzione di tirarsi indietro, soprattutto perché oramai l'anima di quello sventurato di Pelo Rosso era sua e presto sarebbero stati parenti vicini. Meglio non offendere nessuno. Andarono al bar solito dove Pelo Rosso si recava ogni sera e bevvero insieme parecchi bicchieri di acqua di fuoco. Quando ebbero finito l'ultimo bicchiere, Pelo Rosso fece finta di non avere nemmeno un soldo per pagare e disse: «Senti, amico mio, io non ho soldi. Perché non diventi tu una moneta, visto che sei un diavolo? E i diavoli hanno grandi poteri. Così potremmo pagare il conto e andarcene senza che il barista ci insegua. Pensa poi quanto litigheranno tra loro questi poveracci appena vedranno la moneta scomparire in una nuvola di zolfo. Se le daranno della grossa, si scanneranno e magari, chissà, qualcuno potrebbe anche lasciarci le penne. Pensa, ci potrebbe scappare pure un nuovo inquilino per l'inferno. Uno spasso, no? Che ne dici?» Oh là là! L'idea di scatenare una rissa violenta tra buoni amici, magari con il guadagno di qualche peccatore assassino da portare dritto all'inferno, naturalmente a Di Monietto piacque assai. Soprattutto sarebbe stato per lui un grande vanto di fronte ai suoi colleghi di laggiù sotterra per aver procurato nuove anime dannate. Così andò che Di Monietto si trasformò in una moneta. Appena l'ebbe fatto, Pelo Rosso agguantò la moneta e, rapido come una volpe, se la infilò nella tasca della giacca, dove portava sempre con sé un piccolo pezzo di carbone duro legato ad un braccialetto di corallo rosa e una specie di trappola via per diavoli e spiriti maligni che gli uomini di quel tempo si tenevano in tasca per precauzione. Pelo Rosso pagò il conto e uscì dall'osteria con Di Monietto in tasca. Di Monietto rimase così intrappolato nella tasca di Pelo Rosso ed era davvero infuriato. Pelo Rosso sapeva però, da buon esperto, che quella trappola non poteva durare a lungo, perché sarebbe bastato l'alito arrabbiato del piccolo diavolo per sciogliere lentamente il pezzo di carbone e da quel momento il corallo rosa non avrebbe avuto più alcun potere. Ma questo Di Monietto, che era un povero diavolo, assai giovane e poco esperto, non poteva saperlo. Pelo Rosso, da buon furbacchione, propose comunque un altro affare al diavoletto. «D'accordo, Di Monietto caro, non voglio vederti soffrire così. Ti libererò, ma solo se tu accetterai di non tornare sulla terra a prendere la mia anima prima che siano passati 10 anni. Di Monietto, pensando di non avere altra scelta, naturalmente accettò. Presto passarono i 10 anni e una sera, mentre Pelo Rosso, sempre più ubriaco di acqua di fuoco, vagava per i campi, il piccolo diavolo Di Monietto, puntuale come la morte, lo affiancò nel cammino per reclamare la sua anima. Appena i due giunsero davanti ad un albero di mele, Pelo Rosso disse, rassegnato: «Va bene, Di Monietto caro, è giunto il tempo che la mia anima sia tua, ed è giusto che io venga con te. Ma prima di morire avrei voglia di mangiare una mela profumata. Puoi concedere questo desiderio ad un povero condannato?» «E quale sarebbe questo desiderio? Devo forse questa volta trasformarmi in una mela? Scordatelo, non ci casco più!» «No, no, certo che no, fratello. Tu però potresti salire su quest'albero e cogliere una mela per me?» Ora è risaputo che anche ai poveri diavoli ogni tanto piace addentare una mela profumata appena colta dall'albero. Dopotutto, la mela, che voleva dire tentazione, è assai ben conosciuta dalle parti di laggiù sottoterra. E così Di Monietto salì sull'albero per cogliere la mela profumata. Ma una volta arrivato in cima, Giacomino incise rapido sulla corteccia dell'albero una filastrocca: serra serra, palas a terra, palas a muru, murus doppi, tottus a notti, tottus a dì, farì su letto e croccarì. Chiudi, chiudi, stenditi a terra, stenditi al muro, muro sul topo, tutta la notte, tutto il giorno, fatti il letto e addormentati. E la filastrocca imprigionò sull'albero di mele il povero diavolo. Ancora una volta Pelo Rosso era riuscito a imbrogliare Dimonietto. Sei un farabutto imbroglione, Giacomino Pelo Rosso, fammi scendere, cancella quello che hai scritto sulla corteccia, o la pagherai cara. Fu allora che Giacomino propose un nuovo scambio. Dimonietto, stammi a sentire, io ti libererò se prometti di non tormentarmi più, di non prendere più la mia anima e di lasciarmi vivere in pace. E Dimonietto, che non ne poteva più degli inganni di Giacomino, e dato che il mondo era pieno, colmo di altre anime peccatrici a cui portar via l'anima, accettò di lasciare l'anima di Pelo Rosso da andare a vagabondare in pace e dove volesse. Passarono molti anni, e quando giunse anche per Giacomino il tempo di morire, appena egli esalò l'ultimo respiro, la sua anima se ne salì in cielo, ma da lì venne cacciata subito via a causa della vita dissoluta condotta dal suo padrone. Scacciata dal cielo, l'anima di Pelo Rosso andò dritta dritta all'inferno di sottoterra. Ma anche da lì Dimonietto, che nel tempo era cresciuto, si ricordò di aver promesso a Pelo Rosso che mai avrebbe preso la sua anima e si rifiutò di farla entrare. L'anima di Giacomino si spaventò assai. Non aveva nessun posto dove andare e si vedeva condannata a vagare per sempre nel buio e nel vuoto tra cielo e sottoterra. Non potendo stare né in un posto né nell'altro, quell'anima sperduta chiese a Dimonietto dove potesse andare, e il povero diavolo rispose: bella mia, tornatene da dove sei venuta. E così l'anima di Pelo Rosso fu costretta a tornare sulla terra per vagolare sperduta sui campi, e quando scese la sera e si fece buio, l'anima di Pelo Rosso raccolse un pezzo di legno e lo accese. Poi si inoltrò nei campi e rubò una croccoriga, che è una grande zucca dal colore arancione. La intagliò, vi mise dentro il tizzone infuocato e si costruì una lanterna che portò con sé per far luce sul sentiero durante il cammino. Da allora l'anima di Giacomino, detto Pelo Rosso, vagò per i campi e fu chiamata Croccoriga Arrubia, zucca rossa. Avete ascoltato Parole di Storie. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net